Radio 24. Libera la voglia di fare. Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Non mi piace che tu vada in giro a importunare i nostri cittadini col tuo cognome da mezza sega, con la tua faccia da mezza sega, con i tuoi modi da mezza sega, e non mi piaci tu, mezza sega. Che ne pensi del complotto dei frigoriferi a Roma? Me ne frigo. Non è un complotto, è che non è all'altezza, come non sono stati all'altezza gli altri. Complesso di persecuzione della Raggi. Sono le persone che sono maleducate, che non si rendono conto che ci sono delle isole dove si possono buttare questi oggetti, ma siamo abituati a non fare ordine. Guardare ai complotti, guardate la realtà. Chi è bravo la cambia, chi non è bravo grida ai complotti. Oh, meno male che è venerdì, sta roba del complotto del frigorifero ci abbandonerà. Io, per dire, sto a Milano, però nel dubbio, quando soprattutto alle 5 del mattino entro in cucina di soppiatto, una piccola sbirciatina gliela do al frigorifero. A verificare che stia lì tranquillo, ancorato nell'angolo della cucina, sereno, pacioso, eh? Dopo un vox populi, come si suol dire di Roma, beh, la migliore è la signora che dice quello che anch'io sostengo: se una città è sporca è quasi sempre colpa dei cittadini. Sì, poi certo, paghiamo le tasse ed è giusto che funzionino per bene i servizi di quelli che devono raccogliere la spazzatura. Questo è ovvio. Ma se uno butta un televisore per strada, ma oppure se butta uno straccio, una carta, cioè se, ma venite vicino a casa mia a Milano, un giorno vi offro un caffè, se volete, e facciamo un giro, e ci sono i cestini vuoti e magari bottiglie lì a fianco, carta straccia, robe buttate qua e là. Ma che razza di cretini possono pensare poi che una città possa essere pulita? Vabbè, signori, intanto a Vibo Valencia qualcuno festeggia, ha giocato 3 euro e ne ha vinti 163 di milioni, però. Milioni, 163 milioni. La cosa che mi ha più colpito di questa è che su 163 milioni e 500 mila euro, 10 milioni andranno allo Stato in tasse. Cioè, uno ha avuto una botta di culo clamorosa e la tassa sul culo, sulla botta di culo, deve pagare 10 milioni di euro in tasse. Colui che ha vinto 163 milioni, certo, capito, giustamente Carmelo Lavicella mi guarda e dice: 163 milioni, 10 mancia e non rompetemi, no, 10 me li lascio lì, però la razza di questa cosa non l'ho capita. Comunque, come avete capito, Carmelo Lavicella è regia, il nostro Lorenzo Nespoli, lui e il suo, la sua epistassi, si dice così, cioè, pezzi di cotone che ti escono dal naso, cioè, sembra Vabbè, è qui però a lottare insieme a noi alle 6:35 minuti. Tranquillizziamo a casa, è tutto tranquillo, Lorenzo, ve lo restituiamo integro. C'è un po' di sangue da naso il bambino. Dai, siamo qui. Voglio subito salutare Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani.it. È caduta la linea, appena lo saluto. Allora voglio... È qua Perrino? Perrino? Sì, ci sono. Ci sei. Eccoci. Sei andato a prendere un caffè, mi sembra giusto. No, magari, caduta la linea, sono al sud e le linee sono un po' mamma mia, doppicanti, sarà sì. Anche un problema di terremoti, chissà. Ma no, dai, no. Intanto io voglio salutare anche l'onorevole Maurizio Bianconi, buongiorno. Buongiorno a lei. Come sta Bianconi? Bene. Quando è a Roma li controlla i frigoriferi a casa, che gli dà una sbirciolina. Cosa vi dico? Metta una catenina, un catenaccio. Notte tempo fuggono da soli, francamente. Come ci ha detto ieri Carla Rocchi, c'è questa moda dei frigoriferi che vanno in giro a bere per Roma, poi qualcuno ogni tanto torna a casa, altri si buttano un po' così, riversi vicino al marciapiede. Così. Roba da matti. Dai, apriamo il Parlamento, forza, perché qui... Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, allora, gente, dopo il complotto dei frigoriferi c'è questa. Adesso il rischio, lo dico preventivamente, che qualunque cosa dica la Raggi la si butti in vacca, cosa che invece non deve essere così. Per esempio, la questione della plastica. Sarà un problema, no? La plastica. Immaginate quante bottiglie di plastica ogni anno vengono consumate dai cittadini di Roma, i turisti. Allora è data in commissione antimafia la Raggi. E dopo la questione dei frigoriferi c'è questa, che è stata molto ironizzata sui social, ma in realtà c'è, sentite. Ma quando è che passiamo dalle bottigliette alla brocca con l'acqua? Abbiamo già tanti problemi organizzativi. Quello è tutto rifiuto? Quando è che passiamo dalle bottigliette di plastica alle brocche d'acqua? E con la Bindi, un po' perplessa, dice: ci abbiamo altri problemi adesso. Perrino, però questa delle bottigliette non è una stupidata. Adesso tutto quello che dice la Raggi sembra una stupidata, no? Ma questa sì. Questa sì, ecco Bianco. Sì. Sentiamo Bianco, aspetta. Il credito iniziale nella maniera più stolta possibile. Ah, ecco. Sembra che Raggi abbia confermato una sua inadeguatezza al ruolo che svolge. Io l'avevo detto già subito quando accaddero le vicende famose. Secondo me dovevano i grillini, insomma, prendere decisioni radicali, ma invece hanno pensato di mantenere in piedi questa finzione romana e la pubblica opinione ha percepito che la ragazza improvvisa, non ha idea e ogni volta che esce questo dei frigoriferi, dove ha detto motivi misteriosi, invece poi bastava andare su un sito internet per capire che il servizio era stato interrotto con tanto di annuncio, eccetera, eccetera. Quindi un sindaco del tutto improbabile, una grande grana per Grillo e una minaccia alla credibilità dell'intero movimento. Eccolo lì. No, però questa della plastica non è Bianconi, perché non è così una stupidata questa? Ma perché ci sono ben altri problemi, questa qui, sassata su due figli che mina notte tempo sulle brocche e la ragione della Bindine, voglio dire, questa è la sindaca di Roma, il sindaco di Roma, dite come volete, e questa si distingue per una gaffa dietro l'altra, io non solo, poi si tiene, è di un movimento che si vantava di avere tutte le misure alternative per i nostri grandi problemi, tipo quello dello smaltimento della spazzatura, e non trova di meglio che pigliare per assessore una che ha fatto la consulente alla ditta che ha ridotto la Roma in queste condizioni. Cioè, voglio dire, è una contraddizione vivente e è inadeguata, va il direttore. È inadeguata, è molto il movimento naif, secondo me. È una persona... Vabbè, ma lasciamola lavorare adesso. Sì, ma per me va bene, io non sono mica di 5 stelle, più lavoro e più si sputtana. Mi dispiace e basta. Tra l'altro, i 5 stelle adesso hanno il problema del quorum, no? Pare che non riescano ad arrivare alla soglia minima che regolamenta il loro meccanismo di governance interno, quindi Grillo sì. È preoccupatissimo. Vabbè, ma questa è una un roba disastro. Una roba loro, mi verrebbe da dire. Ma sono anche nostre. Abbiamo fatto una manifestazione davanti a Montecitorio per lo stipendio dei deputati e c'era 100 persone. Sì, però ecco, abbiamo un bel deputato qua, Maurizio Bianconi. A proposito, abbiamo Perrino. Allora, tutti a discutere sulla demagogia, il populismo, la battaglia, fare questo, no, ma nessuno che ha risposto in maniera decisa alla domanda banale: è giusto o no dimezzare le paghe dei parlamentari? Perrino, è una cazzata epocale. Detto io ho preparato ieri una proposta di legge, lei non so se l'ha vista. Sì, ma le proposte di legge poi non vengono discusse, Bianconi. Non vengono, se sono proposte. Si discute perché è tornato tutto in commissione, e quindi si discute anche questa. Io non voglio più una lira. Non voglio più una lira. Il deputato deve stare lì gratis. Ne ha già fatti tanti. No, sì, non è questo, oppure, oppure come perché? Dicono, dagli lo stipendio che prendeva prima di diventare sì, deputato. Vabbè, questa può essere anche un'idea. Quindi a Berlusconi diamo un milione, un paio di milioni di euro. A me converrebbe, perché io sono entrato in Parlamento con 206 mi pare. Cosa faceva prima? Che faceva Bianconi? Io faccio l'avvocato e guadagno bene, perché ho una avvocatessa. Sì, però Perrino, tutti questi parlamentari che hanno questa vocazione a rinunciare ai soldi e quindi entrano in Parlamento. Ma a me, io lo faccio per passione, un po' sul cazzo. Io non mi è mai importato niente dei soldi. Qualsiasi provvedimento che riduca i privilegi dei parlamentari è da sostenere in tutti i modi. Dai, e basta questa storia, siamo populisti. Basta. No, Milan, no, neanche alle 6:30. Ecco, neanche alle 6:30. No, neanche... lo spiego perché mi faccio parlare con serietà. Sì. O gli si dà un'indennità adeguata alla funzione, che è quella di legislatore. Sì. Siamo 1000 su 60 milioni. Sì. Si aggancia a un altro potere dello Stato, i magistrati. Vabbè, questo... O non gli si dà niente. Quello che perché? Non sta bene. Perché no? Perché ho tutto niente? Come degli impiegati statali. Ma che impiegati questo statali? 5.000 euro invece che 10.000 euro? 5.000. Ma un impiegato statale non guadagna 5.000 euro. Ma non è né 5 né 10. Perché io campo anche senza questo stipendio. Ma a me non me ne importa niente. Ma sta di fatto che non sto al discorso che io non sono un impiegato dello Stato precario che devo 5 anni. O mi date un'indennità con mi trovata la funzione, o non voglio niente. O zero o tanto. Io non capisco, non Perrino, questa cosa di o niente o 10.000 euro. Ho un'indennità con mi trovata la funzione. Non sono il tuo impiegato, Milan. Ma lo so, non ma sono chi? Un impiegato dello Stato. Ma chi? Non ma sono chi? Un impiegato di banca. Però sarebbe bello avere impiegato Maurizio Bianconi. Maurizio Bianconi impiegato. Scherzo, ovviamente. Perrino, qua su questa cosa poi alla fine si discute, si litiga, poi non si fa mai niente. Non si fa mai niente e la riforma che andiamo a votare per il prossimo referendum ha in questo proprio un punto debole, cioè era l'occasione per mettere mano davvero all'intero impianto della rappresentanza dei due parlamenti, del numero di parlamentari, delle prerogative, e invece se ne viene fuori una riformetta che riguarda il Senato, che in realtà lo sopprime ma lo ripropone sotto altra forma. È uno dei pastrocchi del governo, del referendum. Però Bianconi, io veramente questa cosa, cioè, ovviamente puoi immaginare, i nostri ascoltatori faticano a capire, mandano messaggi, cioè perché ad esempio è stata rimandata in commissione? Perché la legge, allora uno dice questa legge è una cazzata, la togliamo, no? E invece è rimandata in commissione, è chiaro che rimandare in commissione perché no? Dai. Questo è un escamotage quale noi ci siamo astenuti completamente perché era una puttanata parlarne prima del referendum, è una puttanata rimandarla in commissione. Eccoli. E sono tecnicamente possibili tutte e due. L'hanno giustamente rimandato in commissione, dico giustamente da un punto di vista del PD, io non sono d'accordo, perché incideva sulla campagna elettorale del referendum. Ma chi se ne frega? Ma se è un provvedimento, ma non si può discutere se il provvedimento è giusto o sbagliato. Lei dice che è sbagliato e questo io lo accetto. Ma è giusto o è sbagliato? La commissione che è sbagliato. Va bene, ma questa è una posizione. Non è che è sbagliato ridurre si è aperto. Non è che è sbagliato di due, cioè discutere dell'indennità dei parlamentari e dire che in un momento come è sbagliato di mezz'anno. È sbagliato di e mezz'anno. Io mi stava bene. La sua indennità è pari alla presidente della Corte di Cassazione come era prima. Siccome i momenti sono gravi, lei fa una dazione pari all'80% della sua indennità per 5 anni. E come succede? La regione toscana ha tolto il 25% alle pensioni prima di abolirle perché era un contributo di solidarietà. Va bene. Ma lei non può dire che un deputato della Repubblica Italiana prende 2.000 o 3.000 euro. Ma che 2.000? Da 10.000 a 5.000 era la metà. Non può neanche dire che ne prende 30.000 allora. Lei bisogna che lo commisuri alla funzione. Lo bisogna commisurare. E questa è la fregatura che commisurandola non se la tolgano mai. Sai qual è il problema? C'è una specie di paradosso del parlamentare. E cioè noi vorremmo che il parlamentare medesimo si tagli da sé lo stipendio. Questo non accadrà mai. Non c'è altro modo, però. No. Questo è un paradosso filosofico, è come il paradosso del mentitore. Tutti i cretesi sono mentitori. È vero o falsa questa affermazione? Questo è uno dei grandi paradossi filosofici. Sì. In politica uguale. Tu, Alino, ti taglieresti lo stipendio da te? No, è chiaro. E questo è solo che non se lo taglieranno mai. Però capisco Bianconi, poi adesso andiamo al traffico, che dice non è una questione di tanto quanto, è una questione di commisurare agli stipendi degli alti magistrati, perché così dai un ruolo, come dire, istituzionale al parlamentare. E però ancorandosi a questa cosa, non potendo abbassare i soldi degli alti magistrati, il risultato è che rimane sempre così. Comunque andiamo al traffico e poi rientriamo. Manda il traffico. Traffico. Quello che è successo a Goro è solo un piccolo spillo nel pagliaio, perché la gente è stanca e non ce l'ha con i migranti. Il popolo italiano ce l'ha con i politici. Mena 163 milioni a Vibo Valentia. Dove finiranno questi soldi qua? Ciao Mina. Oh Maria, sono Anacleto. Stamattina ho recepito 4,50 euro per spedirti il libro. Leggilo con cura e segui i nostri dialetti. Ciao. Un'atmosfera straordinaria, bellissima. C'è una bella squadra, questo mi ha fatto veramente aprire il cuore. Grillo a Roma, tutto bene, dice Grillo. Allora, grande Anacleto che ha speso 4,50 euro. Anacleto, caro Bianconi, un suo conterraneo toscano, è il fiorentino, come mi manda sempre messaggi così, dicendo mi ha mandato questo libro con i dialetti di tutta Italia. Io poi quando ce n'ho uno, un bel dialetto aretino, magari la chiamo e ce lo legge, ce lo spiega, un proverbio. Qual è un bel proverbio aretino? Guardi, i proverbi aretini belli non ce ne sono. Perché è un modo di dire. Noi diciamo che siamo adesso non ci nasce neanche la gramigna, oppure si manda male anche il concio, cioè il concino. Siete delle brutte persone, questo. Siete delle brutte persone, insomma. Non siamo delle belle persone, vero? No, ma non si butti giù così. No, si butti giù. È vero. Fanfani era Aretino, Gianni Boncompagni era Aretino. Ecco, adesso arrivi, dai, arrivi. Anche Licio Gelli, poi arrivi, vada avanti. No, Gelli di Pistoia. Di Pistoia. Vabbè, vada avanti che ci arriva, poi chi è Aretina? La Boschia, ecco, io sapevo, vedi Perlino doveva arrivare lì, la Boschia, ce l'aveva. Io volevo intanto ringraziare il nostro onorevole per le belle interviste che ci dà su Affari, io lo stimo, l'ho apprezzo molto, è un diverso, dicevo. E volevo chiedergli, ma ha visto onorevole ieri cosa ha combinato Berlusconi? È vero che è andato da Mattarella, allora ce lo dica Bianconi, lei che non lo frequenta. Più è andato a chiedere la grazia, dai, diciamolo francamente. Lui è andato a dirgli: guarda, che io ti aiuto Renzi deve rimanere lì. Ecco. Io sono un po' dirigenti Mazzarina e quindi in cambio che dica che voti no, in ma cambio voto sì, e perché sono della tutto della vostra banda, me la dai la grazia per te. Così, proprio me la dai la grazia. Cioè, nel senso così, io aiuto Renzi, attenzione, esatto. Bianconi, insider dal Quirinale, caro Perrino. Io aiuto Renzi, perché in realtà si sa che è tutta una finta per Bianconi, perché Berlusconi in realtà è per il sì, Confalonieri è per il sì, sono tutti per il sì. Io aiuto Renzi, ma tu mi dai la grazia, questo è... Sì, ma no così, come dice lei. Vabbè. Mi ha chiesto per piacere, sì, io certo. Lo conosco bene. Okay. Non è che io traduco, sa, qua. No, ma lui viene chiesto perché lui dice che quando deve chiedere le cose sta sempre attento all'interlocutore e come dice lui a seconda di chi è ha davanti concavo e convesso. Concavo e convesso, sì. Vedete questa in... Mi faccio concavo e convesso. Esatto, sì. va bene. Confesso e convesso. Allora, io devo far sentire la nostra rubrica. Voi non lo sapete, ma noi da qualche giorno abbiamo iniziato questa rubrica straordinaria. Vorrei che voi vi calaste, se volete mettervi un camice bianco, anche se gli psicologi non ce l'hanno. La rubrica è Lo psicologo di D'Alema. Noi dobbiamo capire qual è la sindrome esatta che ha colpito Massimo D'Alema. Quindi oggi abbiamo due psicologi. Sentiamo D'Alema che, dopo aver buttato gli agnolotti dell'inviata di L'Arena, è stato raggiunto da quelli Striscia la Notizia, credo con le orecchiette. Ormai è una macchietta questa cosa, però vabbè. D'Alema. Ah Massimi, ti ho portato un piatto d'orecchiette, oh, le vuoi assaggiare, sono buone, ma queste non cadono, hai visto? Anche se me lo rovesci non vanno da nessuna parte. Perfetto, le orecchiette le piglio perché sono sacre. Bravo, sono buone, sono orecchiette da Araggi, dalla mamma di Araggi, però le orecchiette non te le ha portate nessuno. E perché non mi sarei mai aspettato da Striscia che faceste l'imitazione dei Giletti. Scusami. Vabbè, chiaramente. Ricci, ti sei ridotto male, ti sei messa a imitare Giletti. Mannaggia. Ovviamente non poteva buttar giù anche queste, eh? Allora, Bianconi, psicologo, dottor Bianconi, ci dica qual è la sindrome di D'Alema. La sindrome di D'Alema, lui è rimasto impegnato a far fuori tutti quelli che fanno quello che avrebbe voluto fare lui. Quindi la sindrome è da vendetta, la sindrome... È una vendetta permanente. Di uno che è gli uomini più intelligenti della politica italiana. Ah, va bene. Dottor Perrino, concorda? Tante volte sì. Ci indovina. Concorda, dottor Perrino, con la sindrome? Sì, io la volta scorsa ho detto che forse si tratta di sindrome dell'abbandono, cioè gli si sente abbandonato, oramai è dedito agli affari e il partito non lo ascolta più. E credo che soffra di questa lontananza. Vabbè, abbiamo due nuove sindromi, ma è interessante, la sindrome da vendetta permanente o la sindrome dell'abbandono. Io intanto vi ringrazio, Maurizio Bianconi, il suo stipendio è salvo, stia tranquillo anche dopo questa bella discussione, e Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it, alla prossima. Che ne pensi del complotto dei frigoriferi a Roma? Me ne frigo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Poi all'inmila Eli e gestisci un raggiano di Yamia. 24 mattino. Allora, le 7:19 minuti, signori, anzi le 7:20 minuti ormai, siamo alla chiusura della 182esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. 182, la 183esima, secondo me, potrebbe regalare qualche cosa. Chi lo sa? Intanto siamo qui nella rassegna stampa di 24 mattino, pronti come al solito a leggere i giornali per voi. Dai Milan, che un colle Venere. Già, noi siamo la radio di Giove, il nostro nuovo logo è in colle Venere. Va bene, allora. Andiamo avanti al venerdì 28 ottobre con intanto i titoli, il Sole 24 Ore. L'apertura Padoan all'Unione Europea, i target raggiunti senza le spese per migranti e sisma, è insomma la lettera di risposta a Bruxelles da parte del governo italiano. Poi quasi tutti i giornali aprono sulla questione degli sfollati dopo il terremoto, il viaggio dei 5.000 sfollati per il Corriere della Sera, Repubblica, sisma, l'onda degli sfollati, il Messaggero, Odissea sfollati, primi aiuti. Per la stampa scosse e crolli, migliaia di sfollati. Il giornale, ecco la mappa delle zone più a rischio. Per il giorno, sisma, dramma, sfollati. Avvenire, sfollati, ma non soli. Come vedete, la parola sfollati c'è praticamente ovunque. Il manifesto Casa Italia, e c'è una foto di Macerie. L'apertura invece del Fatto Quotidiano, il PD fa campagna illegale per il sì con soldi pubblici. La Verità invece, norma ad aziendam, la RAI è libera di sprecare per legge. Nella finanziaria inserite due righe che esentano la TV di Stato dal contenimento delle spese. Questa è l'apertura di Libero. Con questa arriviamo appunto ai tanti articoli dedicati al terremoto, tanta cronaca. Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 5 del Corriere della Sera, qual è il piano del governo. Hotel e palestre per i 5.000 sfollati. Renzi promette, ricostruiremo tutto. I primi pullman verso la costa adriatica sono partiti ieri. Destinazione San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio, altre località dove sono state messe a disposizione decine di hotel per gli sfollati. È altissimo il numero di persone rimaste senza casa dopo le ultime scosse, in tutto 5.000 persone, ma come chiarisce il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, quando saremo a regime, quindi dopo le verifiche sull'agibilità degli edifici, stimiamo di arrivare a circa 3.000 persone. Esclusa l'ipotesi di nuove tendopoli, tutti dovranno ora decidere se andar via oppure rimanere nei centri di prima accoglienza, palestre, edifici pubblici, residence, allestiti nelle aree colpite dal terremoto. D'altronde arriva l'inverno, la tendopoli è anche difficilmente gestibile. Questo scrive il Corriere della Sera. Ovviamente c'è grande dibattito anche tra gli scienziati su quello che è successo e quello che sta succedendo. Pagina 6 della stampa, c'è una nuova faglia più a nord, la terra tremerà ancora per mesi. Questo è il titolo non molto rassicurante. Il terremoto di mercoledì ha origini diverse da quello avvenuto la scorsa estate. Negli ultimi tre mesi ci sono state 18.000 scosse. Nella zona rossa vivono 10 milioni di italiani. Quello che mercoledì era un sospetto, italiani o stranieri, 10 milioni di persone ovviamente, quello che mercoledì era un sospetto, scrive Fabio Di Todaro sulla stampa, ieri ha assunto i contorni dell'ufficialità. A provocare le tre scosse che nelle ultime 24 ore si sono diffuse partendo dalla provincia di Macerata, non è stata la faglia che nella notte tra il 23 e il 24 agosto aveva dato il via alla distruzione di Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto. Detto ciò, la fenditura coinvolta in questa occasione non è nuova nel senso stretto del termine, probabilmente era già pure mappata, ma per esserne certi attendiamo ulteriori riscontri. Così dice Massimo Cocco, sismologo all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Di sicuro c'è che a interrompere il suo stato di quiescenza sono stati gli avvenimenti di fine agosto. Ora sappiamo che c'è un'altra faglia attiva a nord di quella responsabile del terremoto della scorsa estate. Sono contigue, sono in parte sovrapposte nella zona di Norcia. Dalla fenditura larga e lunga anch'essa 20 chilometri, ha avuto origine una rottura protrattasi per 7-8 secondi, responsabile delle due scosse che hanno costretto gli abitanti dell'entroterra marchigiano, della Valnerina, della provincia Sabina a vivere la notte all'addiaccio. Quindi è un'altra faglia diversa, in parte sovrapposta rispetto a quella di Amatrice. In tutto invece, tra i vari inviati, Corrado Zunino e Aussita in provincia di Macerata racconta le case solide, il tempo di fuggire, ecco perché non ci sono stati morti. In parte per le case un po' più solide evidentemente, in parte anche l'orario ha aiutato, la gente di Amatrice colpita alle 3.36 di notte è stata accolta nel sonno in difesa, mentre invece qui nel maceratese l'orario dell'accaduto e la successione delle scosse ha consentito a molte persone di fuggire in strada e abbandonare le case. Poi c'è un'altra considerazione, racconta sempre Zunino su Repubblica. Accumuli Amatrice, il terremoto è durato oltre 2 minuti, 142 secondi. A Ussita, Visso, Castel Sant'Angelo è durato 60-80 secondi. Un minuto in più di fronte a un'onda d'urto intorno ai 6 gradi fa una notevole differenza nella pressione sulle strutture degli edifici, spiegano i vigili del fuoco di Rimini, e quindi la durata minore forse ha preservato altri edifici. Ma invece c'è chi dice che sono stati costruiti con progettazioni antisismiche migliori. Questa è la solita polemica che, per carità, non bisogna mai fare, non bisogna mai dire, bisogna dire tra qualche giorno, e cioè incredibilmente case che crollano con scosse di terremoto che, se avvengono in Giappone, magari scalfiscono proprio, non lo so, forse un vetro di una casa, ma forse, forse. Qui invece vengono giù le case, sono anche più vecchie, queste lo so anch'io, non mi dite cose ovvie, semplicemente però si possono anche modernizzare con sistemi antisismici. In tutto questo, mentre discutono gli scienziati, ovviamente c'è il solito spazio anche per teorie bizzarre, la mettiamo così. Pagina 2-3 della Stampa, Emanuela Fontana racconta lo strano caso di uno studioso dilettante. Uno studioso dilettante che in realtà si chiama Stefano Calandra e nella vita fa il consulente per Bed and Breakfast. Consulente per Bed and Breakfast, lo studioso dilettante avrebbe, qui bisogna usare ovviamente i condizionali, messo a punto un sistema che prevede tutto in base all'allineamento dei pianeti. Prevede i terremoti, cioè la cosa meno prevedibile al mondo per tutti gli scienziati. E comunque così. Aveva scritto Calandra, 26 ottobre, sera notte, segnalazione, l'affollamento di coincidenze di pianeti in linea a 0 gradi di scarto, ben 10 come numero di eventi, essendo una situazione mai vista, fa pensare a un potenziale rischio sismico molto alto. Capito? E veniva indicata un'area generica, quella mediterranea, l'area mediterranea, una fascia oraria più delicata per il 26, dalle 17:30 a mezzanotte. Le scosse sono avvenute, come scritto, il 26 ottobre, a distanza di 2 ore, con potenza in incremento nella fascia oraria segnalata. Poi per il 27, cioè ieri, Calandra indicava rischio sismico fino alle 10:30 e poi di nuovo alle 17:30 con picco alle 22. Il 28 oggi, quindi occhio oggi, un allineamento perfetto dei pianeti a decrescere in serata. Le coincidenze del cielo vicino allo zero in occasione del terremoto di Amatrice, si aggiunge, furono 5. Ora il doppio: Giove, Luna, Terra, Saturno, Venere, Terra, Mercurio, Sole, Terra. A un certo punto anche il giornale scrive: siamo nel campo delle supposizioni primordiali. Però c'è spazio anche per questo. Va bene, c'è spazio invece per il trionfo di Vibo Valentia. A Vibo Valentia 3 euro sono valsi la fortuna di 163.500.000 euro con il 6 centrato al Super Enalotto, e viva, dopo 200 estrazioni e si è arrivati alla estrazione vincente. Tutti gli articoli, ovviamente, i giornali, abbiamo sentito il giornale radio, la ricevitoria, la caccia al vincitore. A me ha colpito quanto scrive Paolo Franci a pagina 23 del giorno, la tassa sulla fortuna. Cioè, a Vibo Valentia hanno vinto 163 milioni e mezzo. Ebbene, sappiate che di questi 163,5 milioni, 10 milioni, cioè il 6%, andrà allo Stato. Allo Stato. Perché? La tassa sul colpo di fortuna. La tassa sul colpo di fortuna. Eccola qua. 6% allo Stato. Uno ha avuto un colpo di fortuna e deve pagare il 6%, 10 milioni allo Stato. Va bene, non è un colpo di fortuna, ma è un colpo da film. Quello nell'articolo, tra l'altro, che mi fa pensare della giornata, l'articolo da mani sul volante, mani sul lenzuolo, si dovrebbe dire, mani sulle sbarre, limate. Oh ragazzi, fuga da Alcatraz. Fuga da Alcatraz, Clint Eastwood si è ieri materializzato in questi 3 albanesi carcerati che hanno fatto così per evadere da Rebibbi. Hanno approfittato anche del fatto che stavano trasferendo proprio da Camerino, dal carcere di Camerino dopo il terremoto, 40 detenuti a Rebibbia. C'era un po' di confusione, scarsi controlli, hanno fatto delle finte sagome da mettere nella branda, Clint Eastwood. Fuga da... Hanno limato le barre, vabbè, Clint Eastwood invece così scavava un po' da Alcatraz nella sua cella, hanno limato le sbarre e si sono calati con il lenzuolo, come nei film, come la banda Bassotti. Sbarre limate, giù con le lenzuola, l'evasione da film di notte a Rebibbia, sagome sulle brandine, in fuga tre albanesi. E infatti il Corriere della Sera dice: se Clint Eastwood in fuga da Alcatraz rubava molliche di pane dalla mensa del carcere per modellare la testa da mettere sulla brandina, loro avrebbero optato per bottiglie di plastica e cartoni per confezionare sagome umane da infilare sotto le coperte. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Mauro Meazza, il giornalista così bravo che gli hanno dedicato lo stadio di Milano. Va bene, questa la potevamo tenere anche per il buon Mauro, magari dopo gliela facciamo risentire, o se non l'ha sentita lo rimproveriamo. Tra poco, manca poco al Meazza in punto, sono le Meazza meno 10 minuti circa. Allora, l'Unione Europea che chiede lumi e noi che glieli diamo, noi come governo. Gianni Trovati racconta a pagina 5 del Sole 24 Ore il senso della lettera, la lettera di 6 pagine, la risposta italiana, accompagnata da tabelle e grafici sul flusso di migranti, sulle spese conseguenti, tutto ciò rispedita a Bruxelles. Migranti, terremoto, riforme, congiuntura economica sono 4 gli argomenti usati dal ministro dell'economia Padoan nella lettera inviata ieri sera a Bruxelles in risposta alle richieste di chiarimenti sul programma di bilancio arrivate martedì dalla Commissione. La congiuntura spiega la revisione al ribasso degli indicatori rispetto agli accordi di aprile. Le riforme motivano l'esigenza di una politica economica un po' più espansiva in attesa dei loro risultati strutturali. Le condizioni eccezionali prodotte da sisma e migranti promuovono invece le esclusioni dal patto che porterebbero sotto la soglia critica i 2 numeri chiave del progetto di bilancio italiano. Il nuovo indebitamento 2017, che scenderebbe dal 2,3 all'1,9% del PIL, e il saldo strutturale pulito da un una tantum ed effetti del ciclo economico, che sarebbe limato dal -1,6 al -1,2%. Questo in sintesi è scritto nelle 6 pagine di risposta in cui, scrive Gianni Trovati, non si apre alla possibilità di ritoccare la manovra, ma si limita a motivarne le scelte di fondo con un ragionamento che viaggia a cavallo tra regole contabili e riflessioni politiche. Anche Repubblica, manovra, Roma replica, Bruxelles non contesti le spese straordinarie per sisma e migranti, e il Corriere, insomma tutti i giornali dedicano una pagina almeno a questa risposta italiana. Una pagina del Corriere invece interessante, ve la voglio segnalare, è un'intervista al presidente dell'INPS Tito Boeri. Lo intervista Federico Fubini, pagina 11. Perché è interessante? Beh, perché Boeri dà alcuni numeri molto interessanti, appunto, sulla questione della manovra, sul debito pensionistico, cioè i pagamenti dovuti in futuro ai lavoratori e ai pensionati di oggi al netto dei contributi. Dov'è il problema? Perché Boeri vuole segnalare un problema sul debito pensionistico. La premessa, dice il presidente dell'INPS, è che la nuova legge di bilancio compie un'operazione importante sulle pensioni, elimina le ricongiunzioni onerose tra casse previdenziali diverse, è positivo per l'equità e anche per l'efficienza e la crescita. C'è poi una seconda operazione che questa legge di bilancio tenta, la flessibilità in uscita, anche questa è un'idea che abbiamo sostenuto. Però viene alle critiche Boeri. Trova che la manovra con 7 miliardi di costo di intervento sulle pensioni rispetti i criteri? Secondo le nostre stime, risponde Boeri, ciò che oggi è scritto nella legge di bilancio, cioè gli interventi sulla quattordicesima, sui lavoratori precoci, la sperimentazione sull'APE social, aumenta il debito pensionistico di circa 20 miliardi. Poi ci sono i costi legati all'estensione della fascia di reddito non tassata per i pensionati, più i crediti d'imposta per chi chiede l'APE di mercato, e varie altre questioni aperte che possono generare ulteriori spese per ulteriori 24 miliardi. Dunque il debito pensionistico con questa riforma potrebbe aumentare di 44 miliardi. E invece Boeri dice: Lei invece aveva fatto una proposta che implicava 60 miliardi in meno, quindi uno scarto quasi di 100 miliardi. Che costi sociali avrebbe avuto la sua idea? Beh, non era un'operazione così radicale. La mia idea sulle pensioni attuali, i tagli erano previsti solo a contare dai 5.000 euro lordi al mese verso l'alto e solo sulla differenza tra quanto giustificato dai contributi versati e quanto le persone ricevono. In rari casi ci sarebbe stata una riduzione della pensione appena superiore al 15%, non drammatico dal punto di vista sociale. Questo dice Boeri, poi fa ancora un'analisi. Dice: non dico come voterò al referendum costituzionale, sono un funzionario pubblico, e respinge anche al mittente la domanda: dicono che lei si voglia dimettere? No, voglio portare a termine il lavoro, è una sfida complessa, forse anche più difficile di quanto pensassi. Però allo stesso tempo sono qui non perché ho chiesto di fare questo lavoro, ma mi è stato chiesto, ne sono onorato, ma basterebbe che il Presidente del Consiglio mi chiedesse anche solo velatamente di fare un passo indietro per spingermi a farlo subito. E lo farei senza rancore, perché mi piace troppo fare quello che facevo prima. Interpretate da voi questa risposta, sembra quasi a dire: basta che Renzi faccia un cenno e io me ne vado dall'INPS, dopo aver snocciolato tra l'altro questi dati, come dire, abbastanza chiari. Oh, a proposito di migranti, il sistema migranti è, qualcuno dice, al collasso, è in difficoltà, ci sono comuni che non ne possono più, molti di qualsiasi colore, di qualsiasi partito, di qualsiasi estrazione politica. Guardate qui per esempio il giornale, Lucia Galli racconta i 150 migranti su 500 abitanti, il record che soffoca Tabiano in provincia di Parma. Nella frazione delle terme degli hotel ospitano sempre più stranieri. E poi c'è il caso di Gorino che tiene ancora banco. Beh, sulla questione di Gorino, questo è l'articolo più incredibile. Franco Giubilei, Gorino, Ferrara. A Gorino compare il cartello shock del parroco: profughi, tornate nel vostro califfato. Così scrive Don Paolo Paccagnella in un cartello affisso alla parrocchia, che è stato poi requisito dalle forze dell'ordine e fatto togliere. Visto che noi siamo infedeli, perché non ve ne andate nel vostro califfato col santo califfo al-Baghdadi, il quale vive di armi e uccide a tutto spiano coloro che non sono sunniti? Ecco, appeso questo cartello. Peccato che, ne so, lì stavano arrivando persone dalla Sierra Leone, oppure persone dalla Nigeria che fuggivano da Boko Haram, i fondamentalisti islamici proprio. Quindi, insomma, questo parroco che magari ha voluto sottolineare la problematica dell'esistenza dell'ISIS, beato lui che l'ha scoperto, però ha centrato completamente, in questo caso, il bersaglio. Cosa c'entrano con i seguaci di al-Baghdadi le persone che fuggono dall'Africa molto spesso e non dall'Iraq, e poi magari fuggono dall'Iraq perché scappano dall'ISIS? Insomma, un'uscita di quelle che davvero ci si poteva risparmiare. A Gorino il cartello shock del parroco. Però sui migranti c'è un articolo molto interessante sul Foglio, lo voglio leggere, ma più avanti, perché ora ci spiega tutto dei al-Baghdadi il nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Ma prima dovrei, dov'è precisamente questo posto che dici? No, scherzo, naturalmente. Ma l'hai sentito prima la sigla? No, eri distratto. Certamente. Ma infatti voi giocate domenica, mi pare, no? Al Mauro Meazza. Al Giuseppe Meazza. E preciso. Non sono parente. Comunque, lo dico lo stesso. Purtroppo faccio una rovesciata alla Meazza. Passiamo dunque, già so che ti sei appassionato alla lettera, sì, di risposta di Padoan, ne hai già dato conto, quindi la nostra replica a Bruxelles. Ti voglio dire che intanto prende forma la legge di bilancio. Sai che la manovra per il 2017, come ti ho già detto, ha un aperitivo e poi il piatto forte. Il piatto forte lo stanno ancora cucinando. Allora, se vuoi sapere gli ingredienti, leggi oggi su Sole 24 Ore gli ultimi aggiornamenti. Ad esempio, il bonus per gli ammortamenti. Il bonus per gli ammortamenti che è programmato fino a settembre del 2018. Poi, siccome sei una persona ligia, vedrai religiosamente su norme e tributi anche come cambia il bonus per le auto, però, perché sulle auto cambieremo regime. Come però non lo posso dire, sta tutto scritto sulla prima pagina di norme e tributi. Laddove, proprio nelle pagine di norme e tributi, troverai l'inserto staccabile che potrai tenere con te e portare in quei paradisi esotici dove ti rechi spesso e volentieri, perché parliamo di voluntary disclosure voluntary, sai che arriva appunto, anzi è già vigente perché quella sta nell'aperitivo, cioè nel decreto legge, e la voluntary disclosure appunto è la BIS o 2.0 o BISclosure come preferisci. Ti segnalo che si è sbloccata la vicenda della Vallonia. Sì. La Vallonia, sai che la Vallonia hanno accettato che l'Unione Europea intera possa praticamente siglare un accordo commerciale con il Canada. Ringraziamo in ginocchio la Vallonia per la grazia ricevuta. Ringraziamo la Vallonia, adesso però è ancora lunga, come ti spiega Beda Romano, prima di arrivare alla operatività del trattato. Comunque è tutto spiegato. E poi devi sapere che c'è un continente nel mondo da 3-8 miliardi di persone in cui girano 62 miliardi di dollari di fatturato, sai qual è? Quello degli scali degli aeroporti. Dove l'ho imparato? L'ho imparato sulle pagine di Moda 24, che si occupa proprio dei negozi, specialmente del lusso, che sono proprio presenti in questi scali e che muovono cifre di tutto rispetto, come anche tu potrai apprendere, caro Alessandro. Articolo da meditazione, anzi due articoli da meditazione, li trovi nelle pagine dedicate alle economie estere, perché il PIL della Gran Bretagna, il prodotto interno lordo, ha segnato un più 0,5 nel terzo trimestre. Pensavano peggio, invece ha rallentato, ma pensavano peggio. E la disoccupazione in Spagna è calata sotto il 20%. Finalmente, verrebbe da dire, al 18,9%. Articoli, ripeto, da meditazione. Tanti cari auguri a te, grazie, tantissimi auguri, veramente, che sia un proficuo weekend. Al Mauro Meazza, scusa, al Giuseppe Meazza, allo stadio Giuseppe Meazza. Voi dove giocate? Noi giochiamo a Genova, quindi... Contro chi? Anzi, a Sampdoria. A Sampdoria dire, giocate, direi un bel 1-0. Va bene, per loro quindi verrebbe... Manteniamo questo così sospetto. Va bene, dopo questo scambio di contumelie che penso avrà annoiato gli ascoltatori, io mi permetto invece di augurare una serena domenica a tutti, tranne che a te naturalmente, caro Alessandro, e soprattutto traffico! Lo volontari di Scrasciur, che cavolo ordini! Mannaggia la puttana, spiegatevi bene! Alessandro Milan, il lupo mannaro dell'informazione. Va bene. Orca. Caro ascoltatore, mi sta inquietando un po', effettivamente. Allora, dicevo, c'è questo articolo sul Foglio di Claudio Cerasa, il direttore, che scrive: la NATO dice che l'Italia rischia grosso. È una riunione che c'è stata ieri, un'assemblea parlamentare della NATO, a cui ha partecipato vari paesi mediterranei con vari onorevoli. Doveva essere una riunione, un incontro formale tra vari parlamenti, niente di clamoroso. Invece viene approvato da 140 parlamentari un documento che farà rumore, perché in questo documento, scrive il Foglio, per la prima volta in modo ufficiale, senza giri di parole, si sceglie di mettere in evidenza alcune verità politicamente scorrette che toccano da vicino la sicurezza dell'Italia. Prima verità: non è possibile escludere che Daesh, cioè lo Stato Islamico, possa sfruttare il traffico migratorio al fine di infiltrare proprio personale verso l'Europa. Anzi, il rischio infiltrazione tra i migranti di elementi legati a formazioni terroristiche radicali cresce in maniera esponenziale e diventa sempre più probabile a causa della facilità di attraversamento dei confini e i dei labili controlli lungo le direttrici. Questo c'è scritto in questo documento NATO, che non c'entra nulla con quello che il parroco di Gorino ha fisso, visto che la situazione era ben diversa. Ma la NATO dice che l'Italia rischia grosso, prima pagina del Foglio. In tutto le grandi opere, parla oggi l'ex ragioniere dello Stato Andrea Monorchio, si ritrova il figlio Gian Domenico in carcere e dice a Valentina Conte su Repubblica: colpire questo ragazzo solo perché è mio figlio è semplicemente miserabile. Farmi passare come un traffichino che trova lavoretti al figlio è un'altra azione miserabile. Che grande amarezza arrivare a 80 anni per subire questo affronto, con la voce che si incrina, racconta Repubblica, e lui che assolutamente dice: mio figlio mi aveva detto, ho mandato via. Questo De Michelis, che è un po', secondo gli inquirenti, il cuore della colui che smistava la corruzione delle grandi opere, questa è l'accusa. E mio figlio l'ha mandato via perché non svolgeva i suoi compiti con la dovuta lealtà. Ma mio figlio si è fatto da solo, non l'ho mai aiutato sul lavoro, colpito per il cognome, così dice Andrea Monorchio, la stessa cosa che ha detto Lunardi riguardo a suo figlio, l'ex ministro Lunardi. Oh, ci sono altri articoli, la politica segnala l'incontro, il disgelo tra Berlusconi e Mattarella, capo dello Stato, 40 minuti di colloquio, l'incontro del disgelo, sapete che Berlusconi non l'aveva votato perché voleva con un accordo altri presidenti, poi la nomina di Mattarella e questo ha fatto saltare il patto del Nazareno, questa è storia politica. Un colloquio anche in vista dei possibili scenari dopo il voto del 4 dicembre, racconta Paola Di Caro sul Corriere della Sera. Il retroscena su questo, un po' più esplicito, è di Libero. Salvatore Dama racconta che Berlusconi è andato lì e in pratica avrebbe offerto questo scambio politico, ovviamente non detto in maniera così brutale, questi sono titoli di giornali. Se mi dà la grazia, presidente, anche se non ha usato mai la parola grazia, diciamo la riabilitazione politica, io aiuto Matteo Renzi nei voti. Chissà se questa retroscena certo serve a confermare coloro che dicono Berlusconi in realtà non è per un no spinto al referendum, potrebbe anche gradire un sì in cambio di una riabilitazione politica. Va bene, segnalo, lo faccio vedere anche la mia pagina Facebook, su Libero sempre, la scuola dove una presida ha deciso di denunciare coloro, studenti, che imbrattano i muri. Brava, dico io, brava, la scuola denuncia i ragazzi che scrivono scemate sui muri. Mirko Maggi, succede in una scuola superiore di Bologna, istituto tecnico Pier Crescenzi Pacinotti. Delega del preside alla mano è passata dalle parole ai fatti, ha denunciato in questura gli imbrattatori seriali che hanno trasformato i muri dell'edificio in una sorta di block notice. Brava o bravo, non so se il preside è un uomo o una donna, comunque a lui o a lei tutta la mia stima totale, conterà nulla, ma la mia solidarietà piena al 100%. Siamo allora alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Sono ben due pagine oggi su Repubblica dedicate a quelle foto dei VIP in mostra nelle trattorie. Uno entra nelle trattorie, mangia, ma ogni tanto deve alzare lo sguardo perché ci sono tutte quelle foto dei VIP che hanno mangiato nello stesso vostro posto. Ma chi se ne frega!